Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ripercorro con la mente il lungo percorso di lavoro che si concluderà tra pochi minuti, quando vedremo quelle barrette di DNA radioattivo. Se vedremo le barrette disposte allo stesso modo, la nostra teoria era sbagliata. Al contrario, se quelle barrette saranno disposte in modo diverso, allora la nostra teoria è giusta. Mi chiamo Daniele, ho 62 anni, vivo a Milano, ho la fortuna di avere un bambino piccolo, il quale è diventato praticamente la mia ragione per vivere. Ho fatto ricerche sul movimento rispetto allo spazio interno e sullo studio del processo creativo, Margherita. Ricercavo stelle variabili in galassie esterne alla nostra o in ammassi interni alla galassia. I miei oggetti preferiti erano le RR Lyrae, stelle variabili con periodi di 10-20 ore. Hanno delle curve di luce bellissime. Le identificavo, ne studiavo periodo e magnitudine e poi da questi parametri potevo scoprire metallicità e distanza per i sistemi a cui appartengono. Claudia. Sono le 16:07 minuti, è venerdì 14 dicembre 2012. Fuori ha smesso di nevicare, ma qui si continua a fare ricerca. Anzi, direi che si inizia a fare ricerca. Perché la storia di oggi è una storia che sembra complicata per tutti i termini che vengono utilizzati, che sono molto tecnici e hanno a che fare con la ricerca in campo delle biotecnologie, mi pare di ricordare. Però vorremmo provare a sentire se ci sono all'ascolto in questo momento delle persone che fanno di mestiere o hanno fatto ricerca. Ci piacerebbe sapere proprio tecnicamente, perché siamo amanti dei termini tecnici, ci arrapano da morire. Tecnicamente, che tipo di ricerca state facendo? In quale campo? E magari anche per scoprire che cosa. 349-238-6666. Abbiamo anche un profilo Facebook e uno Twitter. Il profilo Twitter è molto semplice: voi siete qui R24. Quello Facebook invece è voi siete qui Radio 24. Cambia R, radio. 349-238-6666. Riccardo scrive: ho fatto ricerche su Napoleone, sugli Egizi alle medie. Ora cerco di essere una persona serena e onesta. Quello delle ricerche alle medie, ma si fanno ancora le ricerche? Che senso ha fare le ricerche adesso alle scuole superiori, no? Metti tutto su Google. Ho capito, prima copiavi dall'enciclopedia, però almeno c'era la trascrizione. Nella trascrizione magari ti rimaneva qualcosa in testa. E poi comunque non è che copiassi dall'enciclopedia, prendevi dei pezzi da varie enciclopedie. Mi sono sentito veramente un vecchio quando un mesetto fa ho fatto un incontro in una scuola e parlando con dei ragazzi che erano superiori, 17 anni, ho detto: ai miei tempi io facevo le ricerche sulle enciclopedie. E loro mi hanno guardato, come dire, un po' chi se ne frega e un po' anche soprattutto vabbè, e allora? E io lì, mentre dicevo questa cosa, mi sono accorto che effettivamente aveva poco senso, ma soprattutto che avevo 37 anni, avevo esattamente 20 anni più di loro. 349-238-6666. Simona. Ricercavo durante uno scavo archeologico oggetti, muri di fondazione, piani di calpestio, eccetera, appartenenti al secolo tra il VI e il V secolo avanti Cristo. Mi ritrovavo 2500 anni dopo tra cose di 2500. Ce la posso fare oggi, raga, ve lo dico, oggi ce la posso fare. Tra cose di 2500 anni prima, e le guardavo come se le avessi vissute io, provando lo stesso stupore, come se le avessi nascoste io per poterle un giorno ritrovare. Ma questa è proprio una ricerca quasi fisica. Però tutti i ricercatori all'ascolto, 349-238-6666. Che cosa state ricercando? Abbiamo un hashtag oggi, ricerca? Troppo facile, giusto? Hashtag per il profilo Twitter, chiunque lo voglia utilizzare, è ricerca. Che cosa state cercando? Da quanto tempo lo fate? E qual è la domanda? Perché Daniele adesso lo spiegherà meglio nella sua storia. Dice che l'importante nella ricerca è farsi la domanda giusta. Allora, quale domanda vi siete fatti e che cosa vi state rispondendo? Jean-Pierre, Marie, è ora. Andiamo. Sono le 4 del pomeriggio di una bella giornata del 1988. Mi trovo al quarto piano del Dipartimento di Immunologia dell'Istituto Pasteur di Parigi. Un edificio nuovo di vetro e mattoni, nel quale ci siamo appena trasferiti dai vecchi laboratori. Jean-Pierre si affaccia alla porta del mio minuscolo ufficio con la sua solita aria strafottente. Eliane è la mia tecnica di laboratorio, ma è più di una tecnica, è come una collega.

Quindi non è vero che una cellula riconosce un solo antigene. Ma da questa cosa, come dire, hanno fatto dei medicinali, le persone sono state meglio? No, beh, questo per esempio, adesso detta così brutalmente, potrebbe avere una grossa implicazione per i vaccini. Ah, ok, quindi diciamo quella era l'immediata conseguenza. Senti, invece, una questione più personale. Un ricercatore che fa ricerche come queste può permettere di essere ipocondriaco? Cioè, nel senso che uno ha a che fare tutti i giorni con sta roba, no? No. E poi no, ogni no. volta che ha un dolorino, aia, sarà mica quell'antigene. No, guarda, oggi è diverso. Ma quando, non so, a un certo punto dico anche dei pericoli, no, della ricerca. Sì. Tu pensa, oggi è diverso perché ci sono altri sistemi, ma noi all'epoca lavoravamo con delle quantità di radioattività incredibile, con tutti i virus di questo mondo. Per esempio, noi abbiamo costruito un virus che induceva i tumori nei topi, no? Beh, sta roba che tu arrivi all'aeroporto di Parigi con la valigetta piena di virus è un'immagine da James Bond, quantomeno. Sì, guerra fredda più che altro. Infatti, se tu la pensi, se tu hai quelle paure lì, no, allora proprio nel campo medico no, penso proprio che non puoi essere ipocondriaco. Senti, e poi ti saluto Daniele perché devo mandare la borsa. Sì. E adesso tu fai totalmente altro, hai abbandonato, ti dedichi alla tua vita privata? Sì, mi dedico più che altro alla mia vita privata, che mi dà tante soddisfazioni. C'è un messaggio di una persona che ti conosce, Lucia, che dice: ciao, ho lavorato nel laboratorio di Daniele a Brescia, non lo vedo da 20 anni, forse lui non si ricorda più di me. Eravamo sì. a Combiotech. Benissimo. Per le biotecnologie. Benissimo, l'abbiamo anche trovata. Daniele, ti ringrazio molto per la chiacchiera e per la divulgazione scientifica. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. È esattamente come me lo immaginavo, Daniele. Lo vedete dalla foto che ci ha mandato, che trovate sul sito di Radio 24, la nostra pagina, Voi Siete Qui. È a metà tra un George Clooney delle biotecnologie e il Doc, il professore matto di Ritorno al Futuro. Ha dei capelli bianchi dritti in testa, degli occhiali da sole, una camicina a quadretti e l'aria di chi sa qualcosa più di me. Ricerca, sostantivo femminile. Attività che ha per fine un ritrovamento. Ogni attività di studio che mira a estendere e approfondire le conoscenze in modo sistematico. La rifaccio perché così proprio. Ogni attività di studio che mira a estendere e approfondire le conoscenze in modo sistematico, svolta con intendimenti e metodi scientifici. Detta anche ricerca scientifica, pur non essendo necessariamente pertinente alle scienze naturali. Etimo derivato di ricercare. Data secolo XV. Secondo me ve lo ricordate. Era il 2003, era quindi quasi 10 anni fa. A un certo punto appaiono, credo fosse estate, sui giornali, sui siti internet e in televisione, dei titoli che dicono: è stata dimostrata la congettura di Poincaré. Ora, nessuno sapeva cosa fosse la congettura di Poincaré, a parte pochi di un'elite ristretta, e a scoprirla fu questo matematico che si chiama Grigori Perelman. È un matematico russo che oggi ha 46 anni. Lui dimostrò questa teoria, non la pubblicò attraverso riviste come si fa di solito, ma semplicemente mandò una mail ad alcuni colleghi per dimostrare che l'aveva scoperto questa cosa. Per farvi capire chi è questo Grigori Perelman, è un tizio che ha rinunciato a un premio, che è un premio che si chiama Clay Mathematics Institute, un premio di $1 milione. Non l'ha voluto. Si è ritirato a vivere a San Pietroburgo, essendo russo, con la madre. Vive con la pensione della madre, $160 al mese. E quando i suoi colleghi, preoccupati per lui perché è totalmente sparito dalle scene, lui ha risposto: ho tutto quello che mi serve. Si dice che quando lui ha dimostrato questa congettura, che è una cosa che serve, per farvi capire, ha a che fare con le sfere tridimensionali e presenta implicazioni per le relazioni spaziali, per la fisica quantistica, che possono servire a descrivere la forma dell'universo. Quando Perelman l'ha dimostrata, la congettura di Poincaré l'aveva turbato così profondamente che sembrava averlo annientato. Io ho letto un mese fa un articolo su di lui, una sorta di intervista, su una rivista molto bella, se non la conoscete compratela, si chiama Enorme Internazionale, è una rivista in cui si raccolgono gli articoli che parlano soprattutto di quello che accade fuori da questo paese, dove accadono quelle due solite boiate ogni giorno e ne parlano come se fossero cose fondamentali. Invece succedono un sacco di cose fuori da questo paese che spesso sono molto più interessanti. Questo giornalista, scrittore americano, ha scritto questo articolo per Playboy americano. Ha preso, è andato a San Pietroburgo, si è appostato fuori da quello che poteva essere un palazzone dove in teoria quest'uomo abitava, l'ha incontrato, e quella che vi voglio leggere è la parte finale della loro chiacchierata. «Le dispiace se la accompagno per un po'?» ho domandato. Perelman ha alzato le spalle e abbiamo ripreso a camminare. «Mi sembra di capire che lei non si occupa più di matematica», gli ho detto. «Può dirmi a cosa sta lavorando?» «Ho abbandonato la matematica», ha risposto, «e non ho nessuna intenzione di dirle che cosa faccio ora». Io avevo già un'altra domanda pronta, ma anche lui ne aveva una. «Davvero lei non è russo? Lei parla come uno nato in Russia». Ho provato a fargli un'altra domanda seria. «Considerate le sue capacità e la sua giovane età, pensa che potrebbe mai riprendere a occuparsi di scienza?» Perelman ha sbuffato. Dopo un breve silenzio, sua madre mi ha chiesto se avessi una microspia nascosta addosso. Ero deciso a prolungare il più possibile il nostro colloquio. Cercando di trovare un punto d'incontro, ho parlato delle analogie tra la scrittura e la matematica, mettendo l'accento sulla solitudine imposta da entrambe le discipline. Gli ho rivolto uno sguardo aperto e cordiale. Lui ha di nuovo guardato il cielo, inespressivo. Ci siamo fermati. Perelman e sua madre mi hanno fissato chiedendosi come sarebbe andata a finire. Io ho guardato il matematico e ho domandato: «Come va il ping pong?» «Non ci gioco da tempo», ha risposto. Poi ha messo un braccio sulla spalla della madre. Si stava agitando. Avevamo camminato e parlato per 20 minuti. Cosa avevo capito? Perelman aveva toccato le mie corde emotive, ma non ero venuto a capo del mistero. Avevo tempo per un'ultima domanda e gliel'ho fatta in inglese. «Come continuerà la sua vita da qui in poi?» Perelman mi si è avvicinato. Ho notato che uno dei suoi denti superiori era marrone, scuro, marcio. «Come?» ha detto. Il suo inglese era un po' zoppicante. Perelman ha fatto un'espressione concentrata mentre ripetevo la domanda e ho quasi pensato che avrebbe risposto. Ma quando ho finito di parlare, aveva di nuovo lo sguardo assente. Aveva capito quello che volevo sapere, la direzione di quella strana vita, e ha borbottato: «Non lo so». Ci siamo salutati. Sono salito in macchina. Attraverso il parabrezza dell'auto a noleggio ho osservato Perelman e sua madre che attraversavano il portone, e i barboni, i ragazzini e le neomamme di Kupčino che si occupavano delle loro faccende quotidiane. Perelman e la madre sono scomparsi tra le ombre dell'atrio. La porta di metallo si è richiusa alle loro spalle. Perelman era uscito e rientrato. Aveva preso una boccata d'aria. Ich bin gekommen, um adieu zu sagen. Andern sind schon vor und warten, doch dein Duft bleibt in der Luft zurück. Ich nehme mit, was keiner sagen kann. So nah dran, wie ich dich spür, als wärst du hier. Weißt du noch, als dann der Abend kam? Gleich lagst du in meinem Arm, du sprachst nicht viel und strömtest. Ho pubblicato sul profilo Facebook di questo programma, che a voi siete qui, Radio 24, quello che ho appena letto, che è l'articolo che parla di Grigori Perelman, e ne parla in maniera più approfondita. È arrivato un ultimo messaggio che dice: «Luca, docente di elettronica Università di Perugia, circuiti elettrici su carta e con semiconduttori organici, l'elettronica biodegradabile del futuro. Auguri, Luca». Luca, auguri anche a te, auguri a tutti voi, passate un buon fine settimana nonostante il freddo e la neve, o magari proprio grazie al freddo e alla neve. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Margherita Ina. Grazie a Daniele, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Io sono Massimo di Occhiobello, in provincia di Rovigo. La storia di lunedì è la mia e parla di quando, in preda all'alcol, c'era una sorta di solidarietà che ci aiutava a resistere di fronte alle varie avversità che ci potevano cadere. Invece oggi forse non è più così. Questa è la mia storia e io sono qui.